Pronto? Chiamo da via Talmano, ho sentito dei spari. Da via? Talamano? Via Sì, Talamo. via Talamo, perché sono di passaggio, qua sono venuto a trovare mio padre, ho sentito dei spari. Spari di colpo. Colpi Spari? d'arma da fuoco? Sì, di arma da fuoco. Ma io penso più che è un Kermit. Ma lei dove sta? Non ho capito. Pronto? Pronto, ditemi. Ma sta Cavalieri Reni? Scusa, vi ho detto a via Talamano, scusa, dove si trova? A Cavalieri Reni. No, perché è uscito un numero strano qua Lo so, sopra. perché io sono venuto in vacanza qua e Ho stavo a casa di mio padre. capito. Lei, signor? Signor Cacace Angelo. Cacace Angelo. Sì. C'ha un ricavito telefonico? Ce l'avete? Me Questo lo numero chiedo un qua, attimo. quello là che è uscito. Sì, va bene, un attimo, va nella macchina, vita, vedi. Ma sentite, io che devo fare? Cioè, mo vi faccio, perché io mo ho paura pure, perché prima mi sono affacciato, mo. Ma che parte? Verso la discoteca? Verso la banca? Dove? Verso la banca, proprio a Verso 20-30 metri da casa mia. Bravo, tra Corso Mazzini e la banca lì. No, questo Mazzi, ma mo apro la finestra, ho paura di affacciarmi, comunque mo non non lo faccia, so. io mi mando la macchina, avviso anche la polizia. Uguale, mi chiede molto, che è stato? Ma voi sentite? No, no, non sentiamo. Non ho capito. Ma che stanno sparando ancora? Sì, stanno sparando qua. Ma io sto dietro al pannello di controllo, maresciallo. Fate qualcosa, rimanete in linea con me, io ho paura pure di uscire qua fuori. Chi è? Non c'era? Oh, sono Leone da Cava, chi è? Ah, mi scusi, carabiniere, scusi, Avete sbagliato numero? No, scusi. Aspettate un attimo, sto chiamando la nocera. Ma avete sbagliato numero, avete chiamato qualcun altro? Pure i carabinieri sbagliano. Vabbè, quello si sa, tutti possiamo sbagliare. Io sto pure alla porta qua, ho paura, fate presto, cazzo! Sì. Sono Leone, chi è? Dico sta, oh, dico sta, ciao. Vi dicevo un signore in linea che tra Mi Corso chiede Mazzini e via molto. Talamo stanno sparando, colpo di arma da fuoco. Stanno sparando. Dove sta la banca? Tra Corso Mazzini e via Talamo, nei pressi della commissariato di polizia, là. C'è un signore in linea, c'ha paura, dice, stanno continuando ancora a sparare. Rimanete in linea con me, ho paura. Ma Manna la macchina, ma vi sembra la polizia. Ciao, ciao. Sta arrivando la macchina, eh. ma che cazzo sta succedendo? Ma Oh, avete guardi. sentito? Sì, ci sono tutti, sì, ci sono tutti, sì. Ma che cazzo di... che stanno sparando qua? Ma io sei la mitraglietta, cazzo. È una mitraglietta, mamma mia. Ma rimanete con me, non mi lasciate soli, io pago le tasse, io pago le tasse! Non vi preoccupate, non vi Ho preoccupate, paura, signor. cazzo! Non vi preoccupate, signor Cacace. Pronto? Con lei. Pronto? Mi colpo i pistoli, sta sentendo? Adesso mi affaccio alla Mi finestra. dica allora, vicino a Corso Mazzini, vicino alla banca, dove stanno sparando. Fatemi sentire anche a lui. Guardate, che cazzo! Marò! Io c'ho un signore in linea. Mi sa che proprio lì sparando telefono qua, eh. State sentendo? Sì, sto sentendo, signor Cacace, sto sentendo. Via Talamo, tra Sabbank, giù un bar, loco. Sì, ci manda, Bruno Ceri, ci manda dalla macchina. Ma come? Aiutatemi, cazzo! State calmi, signor Ho Cacace, state calmi. paura! Non affacciate, non vi preoccupate. Come la mia faccia? Io sento i spari! Sto sentendo il fuoco! Rimanete All'anime chi va all'interno. morto! Rimanete all'interno, non vi preoccupate. Non posso uscire. No, e che uscite a fare? State dentro, non vi preoccupate. Ho chiamato la polizia, ho chiamato i colleghi, non c'era. Ma io non becco nessuno, dove stanno sti strunzi? Ma me la faccio di nuovo. Orlando, ma che cazzo è qua? Ma questo lo fanno apposta. Ma appena mi affaccio sparano. Maresciallo. Ci sono tutti, Ma che cacace. fa? Lo fanno apposta a lui. Ma sono armi da fuoco, sono scherzi di chi tratta allora. Arma da fuoco, la mitraglietta, penso. Ci sono tutti. E chi si sparano così all'impazzata? Marcantes. Mă vadă dietro. Mă vadă dietro. Dietro alla casa. Pronto? Sì, sono lì, non si preoccupi. Ma vado dietro qua. Sentite il rumore? Sto fuori. Guarda, non è che dà molto vetro. Io ce l'ho in linea. Mi sa che vado in telefono, ce l'ho in linea. Cacace. Come fa, come fa, come fa? Ripetete, ditelo, come fa? Imitate il botto. Come ha fatto? Pronto? Pronto? Imitate, no, ditele come fa, com'è lo sparo. Come fa? Sì, sì. Come? Maresciallo, imitate lo sparo, può darsi che loro conoscono l'arma. Come faceva? Ma il cagace, ma è uno scherzo, è vero, è cagace. E voi avete detto, fate tu. Una mitraglietta, no? Voi dite tu al vostro collega. Non ho capito. Oi! E mi è uscito un 004, no? Chi se mo non ci capite. Cacace, dammi un numero fisso, cacà. Pronto, maresciallo? Dammi io non posso fisso. Entrare, adesso sono entrato nel garage. Come faccio? Chi ti sparano? Chi lo prende il telefono? Dammi un recapito fisso del tuo numero di casa tua. Il numero fisso? Date un numero fisso, ma mi date a me un numero fisso e vi chiamo al numero fisso a loro. No, tu mi darai un numero fisso a me. Ah, io a voi? Eh. Voi avete detto, ma ti do un numero fisso e ti chiamo io a te. Dammi il numero fisso che ma ti mettiamoci d'accordo, il numero chi me lo deve dare a me? Il vostro collega. Cagace. Chi è che vuole il mio numero? I carabinieri, dammi tu il tuo numero che ti chiamo io. Ah, voi volete il numero? Ve lo dai, è uscito, no? Il mio numero. E dammi il fisso. Il fisso, non c'è nessuno dentro. Chiamatemi il cellulare. Il cellulare? Eh. Arthur, ramo telefono tuo maresciallo ti chiama a te, no? Ma vi do il numero di mio collega. Arthur, ha un numero. Sì. Maresciallo, ma mo dove stanno? 339 339 avete scritto? Eh. Andai giù. 339. 61 61 62 62 78 78 908. Pronto? Ma quando numero mi stai rendendo qua? Io vi sto dando due o tre numeri di telefono, perché se non prende la linea quella, chiamata un altro. 339, 61, 62, 789. Bravo. Poi mettete qualche numero a piacere. Ma mi scassare poco cazzo, ci chiedono io.